su cosa siano i colori, filosofi e scienziati litigano da secoli. Di certo, se continueranno a ritenerli proprietà di cose in un mondo indipendente da chi se lo costituisce come tale, questo mondo, vabbè, ne sapremo sempre meno. Che i colori siano indispensabili alla nostra vita così come la viviamo oggi pare però assodato. Sachs, Oliver Sacks e un suo collaboratore Wasserman hanno raccontato anni fa lo strano caso del pittore accecato nei colori. Si trattava di un noto artista osannato per i suoi dipinti astratti dai sgargianti colori. Un giorno ha un incidente d'auto e ne esce vivo. Vivo sì, ma in un mondo leggermente diverso. Come fosse finito in un televisore in bianco e nero, non riconosce più alcun colore. E la sua vita cambia, ovviamente in peggio. Amava la musica e ora non ne percepisce più i toni. Tutto gli appare sudicio e sporco, anche il corpo della donna amata con cui non riesce più a fare l'amore. Il pranzo e la cena diventano un dramma. I cibi nel piatto gli appaiono semplicemente disgustosi. Rifiuta la luce del giorno sul mondo che lo circonda e gradualmente diventa un animale notturno senza gioia, se non quella misera di aver contribuito involontariamente alla storia della scienza per un caso che verrà classificato come acromatopsia cerebrale. Come dicono Varela, Thompson e Roche nel loro ultimo libro La via di mezzo della conoscenza, La via di mezzo della conoscenza, 1992. I colori, loro dicono che i colori sono categorie connesse perfino al nostro apparato linguistico, categorie che non vanno cercate in un mondo precostituito indipendente dalle nostre capacità percettive e cognitive. Si tranquillizzi dunque quel nostro fedele ascoltatore cui fanno schifo i colori degli indumenti sportivi abitualmente in vendita. Meglio che gli facciano schifo i colori che non vederne affatto. Non si tratta di un caso di acromatopsia cerebrale sportiva, ma il problema comunque rimane. Lui dice che tute, tutine, soprattutte, maglie, spolverini normalmente in vendita nei negozi di abbigliamento sportivo, colori alla mano, fanno singolarmente schifo. Osserva che si tratta per lo più di colorini strambi, esiti di implausibili miscele, magenta, ardesia, zafferano andato a male, grigetti, violacei quaresimali, sottoboschi marcescenti, e se ne chiede il perché. Ci ho pensato sopra, vabbè, la risposta corretta a mio avviso va impostata in termini di evoluzionismo darwiniano applicato alla cultura mercantile. Vediamo un po'. Quali colori possiamo considerare primordiali, sepolti per primi da millenni nella nostra coscienza animale? Il rosso e il nero. Il rosso e il nero che infatti furono i primi utilizzati per quelle pitture rupestri che ancora oggi possiamo ammirare. Ma se io negoziante a Milano nel 1993 ottimisticamente già con il calice in mano per salutare il 94 metto in vetrina solo indumenti rossi e neri, mi taglio via dalla clientela eventuale almeno metà della popolazione, gli interisti, che sono nero-azzurri. Metto insieme allora il rosso con il giallo? Ecco la Roma. Il rosso con il blu? Il Genoa, il Cagliari, il Bologna. Schiarisco il blu? O il Barcellona? Cambio tutto e metto l'azzurro? Napoli e Lazio. Faccio tutto verde? Venezia. Giallo? Modena. Mi faccio venire una cromatopsia cerebrale e faccio tutto in bianco e nero? Non l'avessi mai fatto. Ricevo i complimenti della famiglia Agnelli e posso solo sperare di vender tutto agli Juventini prima che la fossa dei leoni mi incendi il negozio. Evolutivamente, insomma, si sono occupati i colori. prima i prediletti, poi, per il principio di chi arriva tardi all'osteria, man mano quelli che restavano. Poi le combinazioni e infine gli spuri esiti di infausti connubi, a ciascuno la sua missione simbolica, vessilliferi di città, di corporazioni e congreghe, di aziende commerciali, di imprese ideologiche, hanno gradualmente preso possesso delle nostre percezioni e delle nostre rappresentazioni senza lasciarci scampo. Se vogliamo un colore dotato ancora di una minuscola presunzione di neutralità, dobbiamo grattare il fondo del barile ed accontentarci di quel che vien su. Anche se esteticamente repellente, lo dobbiamo prendere. Per quanto liberi mentalmente si sia, il mondo ce lo troviamo con i colori belli e distribuiti, e un pensiero alternativo, un pensiero che volesse assegnare il colore che più piace nel posto che più piace, si incarnasse pure in un paio di mutande, non può altro che fare i conti con loro. Poi ancora pensasse che i colori sono proprietà delle cose, indipendenti da noi che li vediamo in un modo o nell'altro, ricorderò un celebre esperimento di Edwin Land fatto negli anni 50. Land preparò due fotografie in bianco e nero di una donna con i capelli rossi che indossava un vestito verde. Le due fotografie erano assolutamente identiche e differivano solamente per un piccolo particolare. La prima era eseguita con un filtro rosso e la seconda con un filtro verde, e da ciò derivavano densità diverse dei bianchi e dei neri. Orbene, prese le due foto, Land le inserì in un proiettore e sovrappose le immagini sullo schermo. Con un accorgimento, al proiettore della fotografia eseguita con il filtro rosso appose un filtro rosso. Mentre all'altro, a quello che proiettava la foto eseguita con un filtro verde, non appose un bel niente e lasciò che venisse proiettata a luce bianca. C'era da aspettarsi, come minimo, che sullo schermo la foto apparisse sul rosso o in una gamma di colori rossastri. E invece no. La donna aveva i suoi capelli rossi e, dannazione, il suo vestito verde. Land dimostrò come il colore possa scaturire anche da immagini perfettamente in bianco e nero.